al tour con Ivan Basso. È stata una tappa ancora molto impegnativa, non dal punto di vista altimetrico perché era praticamente tutta pianeggiante o vallonata, ma con moltissimo vento e quindi grande tensione, come del resto tutta questa prima settimana al tour. La tappa di domani è molto più impegnativa, è la prima tappa di media montagna del tour, sarà una tappa dove a mio parere ci sarà un attacco sicuramente da lontano ed è una giornata dove potrebbe arrivare anche la fuga. È chiaro che per gli uomini di classifica domani è una prima un antipasto delle montagne che troveremo poi nella prossima settimana. Come sta procedendo questo tour? Sta procedendo bene, nel senso che a parte la parentesi non così bella della cronosquadra, i miei compagni stanno facendo un tour fantastico, sono molto molto bravi, anche oggi mi hanno protetto benissimo nel finale a turno e quindi sono molto soddisfatto del lavoro dei miei compagni e guardiamo con fiducia alle prossime tappe.